Senta Guzzanti, un ascoltatore da Como ci dice: il merito di Fini comunque deve aver affrontato e sfidato Berlusconi pubblicamente, questo non è poco. Ma io direi piuttosto che oggi, se dobbiamo limitare a ciò che abbiamo visto oggi, direi il contrario, che è stato Berlusconi a sfidare Fini, purtroppo, per chi tifa per Fini, purtroppo. Per chi tifa lei che fa il tifo per qualcuno? Io facevo il tifo fino a ieri affinché Fini razionalizzasse questa sua fuga, gli desse un costrutto e andasse fino in fondo. Ma dicendo politicamente che vuol fare, non basta dire rompo con Berlusconi, non è una politica rompo con Berlusconi e invece voglio fare questo e questo. E ciò non si è visto, perché appunto oggi quando l'abbiamo sentito, di che parlava? Di riforma delle pensioni, delle municipalizzate, del fatto che il partito è bello ma potrebbe essere ancora più bello. Della Lega, della forza della Lega. Allora, il Tremonti, va bene. Allora, se era per questo, abbiamo fatto tutto questo grande passo, questo grande casino, per nulla, era tutto qui. Allora, devo dire, lo trovo un po' quasi farsesco, insomma. Assolutamente. Ripeto, la mia opinione è che oggi Berlusconi si è preso delle soddisfazioni grandi, è apparso come uno duro, tosto, quadrato, che ha detto a Fini: tu oggi non hai detto ciò che hai detto nei giorni scorsi, allora te lo ricordo io, sì, te lo rinfaccio, sì, sì. Vieni qui che ti prendo a schiaffoni, e lo ha fatto. E dunque 6-0, 6-0, 6-0? Secondo me sì. Bene, secondo me sì. Grazie.